Buongiorno a voi. Professore, allora parliamo di trifoglio. Ai ricercatori piace particolarmente, soprattutto il trifoglio rosso. Sì, effettivamente il trifoglio rosso, che è una leguminosa come la soia, ha la caratteristica di contenere particolari composti che prendono il nome di isoflavoni, i quali hanno un'attività estrogeno simile, cioè un'attività simile a quella degli estrogeni fisiologici, l'estradiolo, tanto per citare un nome, anche se questa attività è molto più bassa. Gli estratti di trifoglio rosso si sono dimostrati utili nella menopausa, cioè in quella fase della vita femminile in cui la produzione di estrogeni, di estradiolo in particolare, è venuta praticamente meno. Questo causa i tipici sintomi della menopausa, tra cui ad esempio le vampate di calore. Le caldane le chiamiamo anche. Esatto, ma soprattutto comporta un maggior rischio cardiovascolare e osteoporotico, rischi che la donna invece in età fertile non ha, perché è protetta proprio dagli estrogeni. In menopausa cala gli estrogeni, aumentano questi rischi. Allora, ci sono molti studi, anche recenti, pubblicati su riviste prestigiose internazionali, che dimostrano che il trattamento con i isoflavoni di trifoglio rosso riduce la frequenza giornaliera di vampate di calore, non sono delle riduzioni grandi, ben 20, ben 30%, riduce alcuni fattori di rischio cardiovascolare, ad esempio riduce i trigliceridi, la resistenza vascolare, e concorre a mantenere la densità ossea. Quindi nell'insieme il trifoglio rosso può, nelle donne in menopausa, essere un aiuto, essere un rimedio, può essere consigliato ovviamente sempre sotto supervisione medica. Professore, ma più o meno le stesse cose si dicevano della soia o sbaglio? Ecco, le stesse cose anche, anzi direi, per onestà intellettuale, molto di più si dice della soia, perché la soia è stata studiata molto più del trifoglio rosso. Il trifoglio rosso è un po' una conoscenza di questi ultimi anni. Una new entry, potremmo dire. Una new entry che ha una sua dignità, una sua importanza. Poi un dato interessante del trifoglio rosso è che gli isoflavoni di questa erba proteggono la cute, la pelle, dalla radiazione solare, radiazione UV. Questo perché? Perché praticamente catturano i radicali liberi che la luce solare induce e poi stimola la produzione di collagene e elastina, due proteine che costituiscono la pelle. Quindi è utile anche su questo versante. A livello sicurezza, i dati di cui disponiamo dimostrano che il trifoglio rosso non crea problemi. È abbastanza sicuro, è sicuro direi. Grazie professore, e soprattutto anche lei ha dato un'indicazione importante per le donne in menopausa, se è il caso di inserire, affidarsi alle erbe, naturalmente sempre sotto consiglio del medico. Il fai da te è sempre rischioso. Non esiste anche quando si parla di erbe. Professor Pietta, io la ringrazio per essere stato con noi, le do appuntamento a domani, e appuntamento a domani do anche a chi ha ascoltato Essere Benessere. Buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.